belli i nomi che danno all'estate, eh? Cerbero, inferno, demonio. Bah. E dire che è la stagione più bella. Comunque, questione di gusti. Detto questo, noi siamo leggermente in ritardo per l'appuntamento, per aprire la rubrica In Scena come ogni venerdì, oggi densa di incontri. Questo oltre che in scena, per alzare il sipario, è anche un last minute, perché in scena si va già da questa sera con una collaborazione importante e soprattutto ritorna l'incontro tra Radio Città Fujiko e la Bernstein School of Musical Theater. E con noi mattiniera Shiona Farrell, buongiorno, benvenuta, bentornata. Buongiorno e grazie mille dell'opportunità e della richiamata, ecco. È una richiamata importante perché c'è anche una collaborazione con una istituzione che è il Comunale Nouveau ed è per la prima volta questo incontro, di cui magari parleremo. Intanto quello che sarà sul palcoscenico va da questa sera all'11 luglio. Ce ne puoi parlare, Shiona, di cosa assisteremo in queste giornate? Tornate. Sì, noi facciamo un meraviglioso musical, Carousel di Rodgers e Hammerstein, che è una storia molto molto bello, innovativo all'epoca. Perché nel 1945, per cui è abbastanza bello musicalmente, era e lo è molto suntuoso, affronta moltissimi temi molto importanti, ma torna sempre il problema fra uomo e donna. Sì, è una bellissima storia. Io sono un appassionato di musical e Carousel, secondo me, è una delle produzioni più belle, sia dal punto di vista musicale che anche come narrazione. È una storia, se vogliamo, d'amore, un percorso coinvolgente, da me consigliatissimo, peraltro. Quindi, bella questo inizio di selezione per i lavori. Sì. No, infatti è molto bello, il contesto è bellissimo, è la prima volta che lo facciamo ovviamente in questo contesto del Nouveau, anche perché comunque il Comunale, come sapete, il classico è chiuso per restaurazione, per cui è un bellissimo, bellissimo posto, cioè poi molto incantevole con questa storia, con l'orchestra, e poi abbiamo molto, molto ballato. Abbiamo Fabrizio Angelini come coreografia, incantevole. Poi Gianni Marres che fa la regia, come sempre, quando lavoriamo al Teatro Comunale c'è sempre stato Gianni Marres che dà una regia molto molto bello. È molto innovativo anche per la musica, perché comunque parte già con un prologo invece del solito overture, e che abbiamo tutto il cast praticamente in scena immediatamente, che racconta la storia in piccola, cioè introduce tutte, cioè 8 minuti di questo prologo. Altre cose molto innovative era all'epoca, sì, il bench scene, che è la scena dove i due protagonisti, Billy e Lori, Julie, si incontrano. Ed è tutto intorno a una panchina, cioè semplice, cioè una conversazione fra canto e musica. E poi c'è il balletto di secondo atto, 10 minuti di balletto che spiega la storia di loro figlia, sì, dopo la sua morte. È una storia veramente, era una tragedia, Lilium. Sì, del grande scrittore, sì, ungherese Molnar. Sì, infatti, l'hanno trasferito da New England, dall'origine, e l'hanno messo nel 1800, fine 1800, noi l'abbiamo messo nel 1940 per nostra produzione, che è molto interessante. Sì, e il finale è stato un po' stravolto, ma non anticipo niente. Molto. Ma non voglio anticipare nulla, però va bene così. Sì, però Rodgers and Hammerstein, cioè happy ending. Esatto, esatto, è vero. L'happy ending è un po' una caratteristica di Hammerstein, sì, certamente. Assolutamente. Però è un piacere, è un'onore molto, molto grande per noi, perché questa collaborazione con il Teatro Comunale ovviamente è una cosa unica, che non credo che altre accademie hanno la possibilità, non credo in tutta Europa hanno questo tipo di possibilità di fare in un ente lirica un lavoro, sì, professionale, perché proprio di tutte le fette è proprio un livello professionale in tutti i sensi, per cui è un'opportunità enorme, enorme, sì, per tutti. Cioè, ovviamente gli allievi fanno il coro, il corpo di danza, e poi abbiamo ex allievi che tornano, che sono tutti professionisti ormai, che fanno tutte le parti principali, tranne Francesca Taverni, che ovviamente non è stato, ahimè, una nostra allieva, però è un nostro insegnante alla scuola, per cui è tutto in house. Certo, ma io volevo ricordare anche il Dream Team delle produzioni tra il Teatro Comunale di Bologna e la Bernstein School of Music Theatre, che è Il Bacio della Donna Ragno, Evita, I Miserabili, Titanic e West Side Story. Cioè, quindi avete veramente il meglio, si può dire. Sì, Ragtime, sì, no, tutti questi titoli degni di un teatro lirico. Cioè, sì, abbiamo sempre cercato musical con grandi cori, grandi storie, importante, degni. E poi Carousel assolutamente è una di quelle, sì. Ed è dal 7 all'11 luglio, ci terrà compagnia, sì, per tutto il weekend e oltre, ed è un appuntamento in questo incontro, come ho detto, che però sarà al Comunale Nouveau, che secondo me, nonostante il momento, si dice, non lo vedo come un ripiego, lo vedo come un valore aggiunto, come una possibilità, sì, aggiunta, questa qui, per quanto riguarda il musical, e soprattutto una storia come Carousel. Non so se la pensi allo stesso modo, ma credo di sì. Sì, no, assolutamente, assolutamente, è gigantesco. Infatti. Cioè, proprio è molto importante, è lunghissimo, sì. Che la gente non è più abituata, cioè, l'ente lirico, cioè, comunque c'è, certo, un'opera, 3 ore fa niente, capito? Certo. Per cui magari sono abituati. Il pubblico musical magari un pochettino meno abituato di avere 3 ore passato di spettacolo. Spettacolo, sì. Beh, un cast ricco, la musica ovviamente è quanto mai importante, fondamentale, e oltre direi che possiamo dare altre indicazioni, che è dal 7 all'11 Comunale Nouveau, la possibilità per quanto riguarda gli accessi e gli orari, ce li puoi dire per piacere, Shona? Sì, perché incominciamo alle 20, okay, non alle 21, quello è importantissimo. Sì, perché è un po' più esteso. Peso, ecco. Sì, ma anche perché in genere il Teatro Comunale incomincia i loro spettacoli alle 20, okay, invece normalmente un teatro incomincia alle 21 per un musical, ma alle 20, certo, incomincia. Sì. Bene, io ti ringrazio tantissimo per questa anticipazione, però che è imminente, e noi magari ci risentiamo, non lasciamo passare un anno, Shona. Io, da grande appassionato, sì, di musical, benissimo, che possiamo nuovamente avere motivo di scambio e di conversazione. Guarda, metto My Favorite Things per questo nostro passaggio musicale, intanto che ci avviciniamo alla pubblicità, poi ritorniamo ovviamente per la nostra rubrica In Scena. Grazie ancora, Shona, e salutami i ragazzi. Grazie mille, lo farò. Della scuola. Lo farò. Grazie, direttrice. Okay. Buona giornata. Grazie anche a te. Presto, ciao. A presto. Buongiorno. If you say you love me, darling, why did you do that? How could you do that? Why did you do that? How could you love another? Could you love another? Mm-hmm. betrayed my trust in you. Why'd you do that? You betrayed my trust in you. Why'd you do that? How could you do that? Why'd you do that? How could you love? On kittens, bright copper kettles, and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Cream colored ponies and crisp apple strudel. Should sell noodles. Wild geese that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, simply remember my favorite things, and then I don't feel so la colonna sonora di Corusel è stata composta da questo duo che ha portato il capolavoro My Favorite Things, cioè Richard Rogers, il libretto di Oscar Hammerstein. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I simply remember. Tutti insieme o tutti assieme, appassionatamente, The Sound of Music, col titolo originale, quello mi entra più in testa, lo conosco in questo modo nel brano che stiamo ascoltando qua, però interpretato da Carmen Landi. Ovviamente Standard Jazz, nel libro degli Standard Jazz ne conosciamo la versione al sax soprano di John Coltrane, anche questa è veramente da pelle d'oca, grande emozione. Questa versione di Carmen Landi che ho voluto portare è stata interpretata da tantissimi artisti. Per quanto riguarda l'interpretazione vocale cito anche Al Jarreau. Andiamo in pubblicità qualche secondo, andiamo in pubblicità, si rientra e continua la rubrica In Scena sui 103.1 di Radio Città Fujiko. A tra poco, buon ascolto, non cambiate frequenza, vi aspetto. E dove vi porto? Vediamo un po' se ricordo bene. San Francesco estate, vediamo.